sa, iniziamo a fare un po' di rumore per capire se qualcuno da fuori è interessato. No, no, meglio di no, perché siamo quattro comici e quattro di pubblico, quindi... Quindi potremmo anche scambiarci. Esatto, potremmo invertire. Sì, ma facciamo una roba tutta mia. Futurista, chi vuole sale, chi non vuole scende. Tra l'altro lo dico anche ai miei compari di Sventura stasera, c'è un altro gelato, quindi quando volete, se volete salire, dire delle cose, aiutare, fare danni, non è un problema. Tanto ci sentono comunque. Sì, è bene. Io provo un po' a avvicinarmi, Enrichetto, tu che sei un noto trascinatore di folle. Se avete preferenze sulle luci, luci vanno bene? Possiamo anche cambiare, possiamo fare blu e verde. Vado a fare dei cambi per vedere se questo ingolosisce. Sì, metti luci colorate. Anzi, abbiamo guarda. No, rossa è ansia. Verde, diamo rotazione. Esatto, esatto. E blu anche. No, a lei non piace, voi? Niente. Blu? Blu ci sta. Diteci il colore. Diteci il colore, qualcosa... White, mi dicono white. Perché parliamo in inglese? Abbiamo un pubblico. Mi stai dicendo che di questi quattro due sono stranieri? Ma bussa al vetro, fai quello che facevi da giovane quando aizzavi le folle. Sentiamo. Dai dentro. Eh beh, sai che un ragazzo, guarda, aspetta. O stanno uscendo o stanno entrando. Quindi no, ha girato a sinistra e a sinistra c'è l'uscita. Dobbiamo provare. No, va bene, ma tanto noi prendiamo noi, poi io parlo al plurale come il Papa, ma in realtà sono da solo, parlo con microfono, sembro un idiota, siete in quattro. Mi sentite benissimo. Di là, guarda, perfetto. Beh, già questo è un bel momento di comicità, Enrico. Sì, sì, sa. Hai fatto questa prova? Sa. Dimmi, tu Andrea, vai tra. No, io ti chiedevo, ti convincono i volumi, vedo che stai... Sì, no, ho sempre grossi problemi col microfono. Ma qualcuno sta a suonare il pianoforte? Ci sono altri, un altro, un ragazzo, un signore. Lei è entrato per me o per sentire noi? Sia sincero. Andiamo. Sia sincero, le do del lei. Silvia, tu sei un po'... Silvia, sei un po' statica. Vieni se vuoi fare. Con quale talento hai, Silvio, oltre a farci morire da ridere, come dicono i giovani? Tu il pianista. Ah, stai già coinvolgendo? Dai, Ludo! Vai, allora. Tu, Ludovico, davvero non sai suonare il piano? Non lo sa suonare? Ah, sì, allora... Ragazzi, a sto punto la serata di cabaret è finita. No, è mio, però puoi berlo. Mi va fatto molto meglio. Aspetta, abbiamo... Allora, guarda, io ti prendo il mio bicchiere. Suona. Qualcuno, aspetta, un attimo, qualcuno di noi se ne intende di questo? Nessuno, naturalmente. Cioè, l'unica persona che sa suonare il piano è Ludovico, mi stai dicendo. So che se sale Ludovico perdiamo un altro di pubblico. Quindi è meglio non suonare. Facciamo così, se Ludovico viene a suonare, uno di noi deve andare al fianco di Ludovico. Come ti chiami tu, scusami? No, tu. Sì, Maddalena, uno di noi deve andare a fianco di... Ho quattro soldi, diamo il nome anche a loro. Ma che bella coppia sono Maddalena e Ludo. Sono bellissimi! Madonna, fammi tornare qua! Luce sui ragazzi! Non abbiamo questa disponibilità. Luce su Ludovico e Madda! Qua abbiamo Paolo e Margherita. Aspetta, io vedo gente che si muove in questa direzione. Signori, vi perdete un grande show, eh? Qui ci sono i presupposti per fare una cosa che non capita tutte le settimane. Ah! No, era una finta, gente del locale, lo so, ma non dirlo. Non dirlo. Ragazzi, cominciamo, finiamo. Ma era già un tentativo di inizio questo. Cosa? Allora, facciamo partire Ludovico, dai. Ci delizi. Dai, una robina veloce. Un 20 minuti dei tuoi? Veloce, poi torni dalla Madda. Oh, dai, un notturno fatto male, una roba. Dai. Ragazzi. Ludo. Aspettate, qualcuno vada a sostituirlo. Scusa, Alberto, sei il più vicino. Signori. Che bella serata, stiamo facendo. E adesso il pubblico diventa di più. Ludovico, tu fai quello che ti senti. Aspetta, facciamo le cose fatte bene. Qual è il tuo forte, Ludo? Ma in realtà non c'è niente di forte. Quanto hai studiato il piano, Ludo? Fammelo intervistare. Scusa. Volevo prendere il bicchiere. Quanto hai studiato il piano? Un po'. Tipo? 8 anni? No, di più. 10 anni? Da quando sei anni. E quanti anni hai adesso? 25. Quindi 9... 24. Sono 19 anni. Qualcosina, dai, almeno la canzone della Barilla. La Barilla. Ragazzi, Ludo. Ma non c'è bisogno del microfono. Dai. Scusate, non è che è l'artista. Non fate è... ingerenza. Ludo è già un po' così. Ce l'abbiamo tirato fuori sulla forza. Col forcipe. Vabbè, io faccio un pezzo. Vai, Ludo, vai. Vuoi cantare? No. Ma che bella serata è. Ma davvero, sai quelle cose che tu dici? Raga, ma io ne ho fatte di serate comiche, no? Dopo... Ma voi una così bella nella top 4, che serata strana. E poi alla fine vi ricrederete. È nella top 4. Perché alla fine è brutta. All'inizio è strana. Esatto. Non può che peggiorare. Scusate, se no Ludovico giustamente continua a fare accordini che sappiamo fare tutti e non suona. Ludo, quindi... allora io non voglio metterti un po' di ansia. Ma qui ti stai giocando tutto, eh? Cioè, ansia da prestazione. Ma è una bella serata e non ce la rovinare tu. Non rovinarla. No, vabbè. Non è un problema. Lo fa solo da 18 anni. Ma è emozionato, gli abbiamo rotto i coglioni. Ti ricordo di non rovinare la serata. E tra l'altro potresti rovinare anche la tua splendida storia con Maddalena. Perché comunque Alberto, tu lo vedi così già ma Alberto con le donne Lo cambio in tutto in questo momento, Oh, ti becchi sua moglie e due figlie. Sei disposto a prenderti una famiglia a carico? Sono due figlie già abbastanza grandi. Cioè, le vaccinazioni le hanno fatte tutte, sono sverminate, vai tranquillo, cioè. No, ma un attimo, signori, è il momento. Può andare avanti anche ora per me. No, adesso. Avanti, Figa, abbiamo aperto il vaso di Pandora, raga. Ancora. Ludo. Che bello. Grande Ludo. Avanti. Un grande applauso a Ludovico. Ludo. Grande. Già la serata è bella, molto bella, emozionante. Un inizio così. Ditelo ai vostri amici cosa si vede in questo locale. Mamma mia, Ludovico, non lo meritavamo. Un inizio così. Ludo ci ha fatto il pianoforte. Adesso Margherita viene a fare un pezzo di stand-up comedy. Allora, vieni tu a fare il pezzo? Sì, alla grande allora. Beh, ragazzi, qualche altro talento in sala? Ballo? No. Ma noi lo scopriremo. Va bene, noi cosa facciamo? Proviamo a iniziare a fare una cosa un minimo che abbia del senso dell'ordine. No, del senso dell'ordine, poi... Ma è stata bellissima un momento nudo. No, ma io non ho fatto critiche al momento. No, hai detto del senso. No, ma... Anche perché crei un'aspettativa e non è il caso, ragazzi. No, è vero. Non è il caso. generale, ma particolarmente. Tra l'altro, a me adesso mi serve il telefono perché devo dire una roba, ma mi serve il telefono. Sì, ma non ho grandi sorprese, però. No, no, dovrei farcelo da solo, Perdonami? No, mi sono salvato due robe che ho letto sul giornale oggi, su Repubblica, e c'entra l'argomento cani. Chi c'è? Un amico che si è perso l'esibizione di Ludo. A parte questo, tra l'altro brutto gesto. Vai Andre, non ti far distrarre. Tu vai dritto! Sì, no, ma aspetta, c'ho anche la tosse, è un momento difficile anche per me che ho... C'ha pure la tosse, che serata è? Tu hai caldo invece? Sì, vuoi la mia felpina? No, grazie, anch'io ho caldo. E con la tua felpina rischierei di avere molto caldo. No, no, ma io non mi sembra che stavo per fare. Ludo suona e poi esce. È artista. Aspettiamo, non abbiamo fretta. Come vedi, stasera è una serata informale tra amici. Ma che amici, ci odiano? No, no. Ma loro sono qua oramai. Ormai sono dentro. Ma io posso iniziare a dire due cose. Tanto Ludu. Ludu. Siamo già Ludu. Dai, facciamo una roba un po' afro. Ogni cosa ti dà uno spunto per un'idea geniale. Che bello. Ti ringrazio, Enrico. Enrico, ragazzi, e si sta scaldando adesso. Era arrivato qui senza voglia, invece. Stai strabordando. No, non era. Intendevo di voglia, non era una critica. No, non hai capito il senso. Ho capito di essere di troppo. No, hai capito male. Stavo facendo un complimento al fatto che sei arrivato qua privo di energie, vedendo questa bellissima serata, sei diventato carico di energie. Diciamo che tutte queste cose le abbiamo provate. No. Ma da sei mesi, Da quant'è che ti abbiamo chiesto di esibirti? Qualche mese. Vai, ti sei preparato a dovere, Ludo. Sei molto fortunato, però anche tu hai un bel manzo, Ludo. No, perché hai finito così la tua... la tua chiosa è stata... Ma io non vedo l'ora che tu venga qua per poterlo fare ufficialmente con un microfono. Dai, parla delle robe dei cani. Vabbè, devo parlare delle robe dei cani, ma è una cagata, non è che adesso lo... È una cazzata, adesso tu stammi dietro, perché secondo me è un argomento che potrebbe interessarti. A me cani lo sa che interessano. Cioè, io e te siamo due amanti dei cani, almeno io sono un grande amante dei cani, tu? Io molto, però siccome ho anche delle cose anch'io sugli animali... Non vuoi dirmi niente. Non mi avventuro, non vorrei spoilerare, bruciarmi delle battute senza sapere quello che stai dicendo. No, vabbè, ma è una cosa molto semplice. Io comunque sono un grande amante dei cani, degli animali. Nel frattempo vi faccio vedere anche come. Non indifferente, ragazzi, punto. Quante frese. Andrea Fadenti. Ma parlavi del mio. Grazie. Applauso 84. Andrea Fadenti. Ma parlavi del mio fisico o del tuo fisico? Del mio fisico o del tuo fisico? Tutte e due, facciamo pancia a pancia. Dai! No, ma non è che non lo voglio fare. Siete venuti per questo. Guarda lei come ti guarda. Guarda, cioè come ci guarda, perché poi io mi tolgo da questa cosa, ma in realtà sono presente con te. Loro sono già, li abbiamo già presi loro due. Ma guarda che anche ma solo per mezzo di Ludo. D'altronde lei non può schifare il fidanzato che è venuto qua a suonare. Dai, un pochino. Ah, tu sai già i nomi? Sono. Scusate, io ne ho sentiti due. Io sono un attore, però. Io non... Ho una discreta memoria. Tu sei una ciofeca. Hai ragione. Per quello uso il telefono e mi scalvo le robe, sennò non riesco a dirla. Ma sentiamo questa battuta sui cani. No, ma adesso non è neanche. Ragazzi, ma non è. Tra l'altro è una cazzata che ho letto oggi, non è neanche una battuta, vabbè. L'hai detta? No, sì, ma è una roba, devo dire una roba, che ho letto due articoli, cioè, parte dal fatto che io sono molto amante dei cani, non ho mai avuto un cane se non ho tenuto cani di amici per dei periodi, grazie. Ti ringrazio. Ho un collega con cui lavoro da tanti anni che ha un cane che porta tutti i giorni in ufficio, quindi questo cane lo conosco molto bene. Che lavora nettamente meglio del mio collega, e questo cane comunque l'ho tenuto per un mese. Quindi, anche se formalmente non ho mai avuto un cane, sono stato con un cane, cioè non fisicamente, ma nel senso ho avuto un cane come un cane come compagnia. E volendo molto bene i cani, anche se so che i cani mettono il naso nella merda, io fino a qualche tempo fa ero uno di quelli che il bacetto così al cane glielo dava. E so che è una roba schifosa. Tutto questo per dirvi quanto mi piacciono i cani. Questa cosa qua la dico. Andre, dimmi. Non li dobbiamo mettere. No, il mio è sopra quello, il tuo è quello. Tutta questa cosa qua dei cani. Sarà difficilissimo stasera, ragazzi. Tutta questa cosa qua dei cani. Per gin e vodka. Il mio gin. Tu sei un bevitore di vodka, vero? Lo sapevo. Alla Bukowski, sei un grande. No, ma ragazzi, farà cagare. E comunque no, tanto questa qua era una premessa che non c'entrava niente, era solo per dire quanto io voglia bene ai cani. Ma c'è una categoria vacca cane di cani, vacca cane, vedi? Di cani che mi fa molto incazzare, che sono i cani poliziotto. Tendenzialmente i cani poliziotto sono del sud. Sì, una cagata, ma... E oggi ho letto la storia di sto cane qua, tale Cosmo, cane antidroga, che praticamente a Malpensa ha beccato un tizio americano che veniva da Santo Domingo. Sto tizio qua era in sedia a rotelle e con un tutore visibile alla gamba, e in realtà nel tutore, nella carrozzina, nascondeva 8 kg di cocaina, e il cane lo ha sgamato, Cosmo, quell'infame cane di merda. Ma visto che comunque là sopra c'è qualcuno, c'è un dio, io non sono religioso, ma c'è comunque un karma, anche che non ti prende magari direttamente, sempre oggi, sempre su Repubblica, leggo che a New York, quindi a 6.000 km di distanza da Milano, Bondi, barboncino di appena 8 mesi, mentre stava passeggiando in un parco a New York, ha ingerito 3 avanzi di spinelli ed è stato male tutta la notte. Bondi si chiama. Come Sandro Bondi. E quindi questa cosa qua del cane antidroga che sgama la droga e del cane che sta male per colpa della droga mi ha preso tantissimo, e mi sembrava una bella metafora della circolarità della vita. Ma ti sembrava anche un bel inizio per la serata. Sì, chiaramente non caricato così tanto. E quindi io adesso ho anche paura di andare avanti, perché qua sai Andre, che non ti ho mai visto così. Aspetta che bevo. No, no, leggi, ti faccio leggere l'articolo, ho fatto lo screenshot. Qui, ragazzi, cosa facciamo? Amoreggiamo o... No, continua, lui è il presentatore ufficiale della serata. Beh, capito che onere che ho. Le tue responsabilità. Ma io allora, se vuoi... Io entro, esco... Io se vuoi racconto una storia... devi cominciare a farle ridere con queste cose un po' greve, perché ragazzi, sono così. Che tipo di comicità piace ai ragazzi? C'erano che bisogna anche un po' di rilassare. Sì, lunedì. C'ho la memoria, sono attore. Intanto non ci dice come si chiama. La ragazza che mi è sembrata del centro Italia, però. E qui cala il silenzio. Francesca. Ma un applauso a Francesca, dai! Vuoi raccontarci una storia? No, continua. No, ma io sì, poi qua Francesca. Non ho pezzi su Francesca. Non ora. Vai avanti. Un attimo, vado avanti. Non sarà mica difficile andare avanti con Enrico Di Fiera. No, è bellissimo. Ho sempre paura a fare una frase che duri più di 20 secondi, perché poi no, ma io voglio che tu salga. No, non mi devi fare così però, Enrico. Io non ti voglio tarpare le ali. Per quanto tempo? Quanti minuti ho? A spanne. No, vai avanti, tutta la notte. No, tutta la notte. No, vabbè, allora racconto una cosa, in realtà racconto delle cose molto semplici, nel senso che volevo anche provare, quindi quale occasione migliore di provare della roba nuova mai testata di fronte a un pubblico di 6 persone in tutta questa situazione comunque un po' grottesco, surreale. Però... la provo lo stesso. Vabbè, io vivo qua a Milano da quasi 15 anni, faccio 40 anni quest'anno, e per i primi 21 anni della mia vita ho abitato in un piccolo paese di campagna di 2000 persone della provincia di Mantova, Alto Mantovano per l'esattezza, quindi quella zona tra Mantova città e il lago di Garda, tanto per intenderci. Desenzano, sento un applauso? No. Pensavo per il lago di Garda, ma. E la cosa particolare. Ho sentito uno schiocco sul lago di Garda. Tanto io sono sordo da un orecchio e quindi quello che sento lo percepisco tutto da qua. Vedete, l'esperienza del comico, no? Sento un applauso per i chiamati. L'esperienza del comico che si ha le visioni non sta bene. Senzano parte sé. Beh, davvero. Chi di noi non ha mai fatto una serata di quelle interessanti? Quante serate hai fatto tu ad Esenzano? Vado avanti, ma purché tu stia male. Poi si sente molto il fatto che soffochi, quindi cerco di prevenirlo in qualche modo. No, comunque stavo dicendo, paese di 2000 persone della campagna mantovana, quindi proprio un altro luogo. Io sono cresciuto in quel posto durante gli anni 90, perché sono dell'83, quindi 90, 95 è stata la mia, 98 la mia adolescenza. E crescere in un paese di 2000 persone di campagna negli anni 90 è proprio un altro mondo rispetto a come può essere Milano. Voi credo siete tutti di Milano, comunque di una città, cioè proprio davvero un mondo diverso. Cioè, per farvi capire cosa intendo, nel mio paese, fino a che io sono rimasto lì, fino quindi ai 21 anni miei, le strisce pedonali per strada non c'erano, cioè non c'erano fisicamente. Cioè, io le prime strisce pedonali le ho viste a 14 anni quando sono andato a Mantova a fare le superiori, che non sapevo cosa fossero, perché io vedevo della roba bianca. E col mio retaggio campagnolo pensavo fosse uno di quei giochi tipo campana, quelle robe che... Quindi io le vedevo, mi andavo in strada e saltavo solo sul bianco. Non sono morto, non ho fatto incidenti. Poi ho capito le strisce pedonali. Quando poi sono tornato anni dopo, dopo l'università, ho trovato le strisce pedonali anche nel mio paese. Ma la cosa bella, in particolare, che c'è, giustamente uno dice, cazzo, che traffico ci può essere in paese? Vero, non c'era particolare traffico, ma le macchine c'erano, e il fatto che non ci fosse traffico faceva sì che i bambini andassero a scuola da soli anche a 8 anni. E quindi uno dice, magari le strisce pedonali esattamente dove c'è l'asilo, dove ci sono le elementari, potevi metterle, ma non le hanno messe, sino quando io ho avuto 25-30 anni, quindi molto tempo dopo. Un'altra cosa che ho trovato nel mio paese, invece, non hanno fatto le strisce pedonali per così tanto tempo, ma hanno fatto una rotonda, che non aveva nessun tipo di logica, perché appunto non c'era traffico. E tanto sta rotonda intersecava una strada che faceva così e una strada che faceva così. Quindi immaginatevi. E quando l'hanno messa, i vecchi che venivano da questa parte qua dovevano andare dritti, non capivano che dovevano fare così. E quindi andavano dritti contro mano. Fortunatamente, non essendoci macchine, non è mai successo un incidente. Poi su sta rotonda, e chiudo l'argomento rotonda, che mi rendo conto quanto può essere accattivante, poco tempo fa hanno installato un artista locale, ha installato una statua in pietra, credo, non so, in marmo, di Papa Wojtyla, ve lo giuro, che sorregge un bambino così. Probabilmente l'artista non conosceva bene le meccaniche, le dinamiche della scultura, e quindi non è riuscito a fare una scultura che con solo le due braccia sorreggesse il bambino, e quindi gli ha fatto un perno che parte dall'ombelico di Papa Wojtyla, curvo, che va addosso al bambino. E se tu lo vedi con disattenzione, passi per quella rotonda, sembra che Wojtyla abbia un cazzo gigantesco che sta infilzando sto povero ragazzino. C'è stata polemica sulle varie pagine Facebook del paese. Il paese si chiama Cerlongo, un paese di merda, ora andateci mai. Tanto tutto quello che c'è di fianco è bello, ma quello proprio invece è un posto brutto. Pianura padana, zanzara, umidità, affan, c'è niente. Abbiamo i Natali in pochi. Però invece Cerlongo è un posto di merda, ma Mantova invece secondo me è una cittadina molto bella. Magari ci siete stati, classiche gite, perché Mantova alla fine è famosa per 3-4 cose che vanno a livello della cultura, cioè per tutti nazional popolare tortelli di zucca, ok, quelli magari li avete mangiati. Poi se siete un po' più colti si arriva a Palazzo Te, Palazzo Ducale. Poi se avete studiato i Gonzaga, che sono state appunto quella signoria che ha governato Mantova e ha portato tutte le robe belle che ci sono a Mantova, perché altrimenti Mantova è una città che sorge su 3 laghi ma sono inquinati, e quindi credo sia l'unica città al mondo dove hai 3 laghi e nessuno ci ha mai fatto il bagno. Quindi pensate che pensate la mentalità del mantovano, quanto può essere indietro. Però Mantova ha un'altra particolarità, che ce l'ha solo Mantova, che è i maiali. Aspetta, il numero di maiali. Cioè, l'intera provincia di Mantova fa 400.000 abitanti, a Mantova ci sono 1.200.000 maiali. Fanno 3 maiali a mantovano. Siamo a tanto così dalle 4 mogli degli emiri. Cioè, per caso un giorno i maiali si incazzano, si organizzano, ci fanno un culo così. Fino ad ora questa cosa non è successa. Un'altra particolarità di Mantova, che pur essendo in Lombardia, perché Mantova è Lombardia, ma dalla mia parlata intuirete che c'ho l'esce un po' emiliana, perché siamo lì, siamo inculati, siamo lontani da tutto, soprattutto dai grandi centri come può essere Milano, che è da Bologna, siamo vicini, ma a Milano in treno e in macchina ci mettiamo una vita. Infatti Mantova è un po' l'ultimo baluardo lombardo della Lombardità. So se si dica, prima del confine emiliano, prima del nemico emiliano. Infatti noi di Mantova siamo un po' i vostri curdi. E cos'altro dire di questa meravigliosa città che mi ha dato i natali? Avevo un'altra puttanata, ma non me la ricordo più. Ah sì, ma è una cazzata, però la dico. Che l'ho detta prima Alberto, e vabbè la dico. E poi lascio, e poi io dico... Ma non è piaciuta? No, ha fatto un sorriso. Però io me la rischio, perché io sono un cuore coraggioso e tanto non potrebbe andare diversamente stasera. Vabbè, appunto, è il piatto tipico di Mantova, l'ho sentito in un podcast, ascolto molto i podcast quando vado in macchina soprattutto, ho sentito questo podcast che parlava, che smonta un po' le teorie, le credenze alimentari sulle ricette italiane, la tradizione eccetera eccetera, e a un certo punto parla dei tortelli di zucca. Tortelli di zucca, appunto, piatto tipico di Mantova. Da una vita, da non so quando, i mantovani e i ferraresi, che sono a una distanza vicina, non so dire in chilometri, ma non sono lontani, da sempre si contendono il fatto di chi li ha inventati. Ferraresi dicono i ferraresi, mantovani. Ferraresi dicono sta storia. Isabella d'Este, nata a Ferrara nel 1490, quando ha 14 anni, si sposa il marchese di Mantova, Gonzaga, e senza che i mantovani chiedano niente, lei a un certo punto fa cucinare i tortelli. I mantovani impazziscono, rubano la ricetta. I mantovani dicono: Isabella d'Este nel 1490, quando ha 14 anni, si sposa il marchese di Mantova, senza che lei chiedesse niente, i mantovani fanno assaggiare i tortelli, lei impazzisce e, da gran spiona qual è, chiama i ferraresi e svela la ricetta. Ora, nel 1490 la zucca nella pianura padana non c'era. Quindi chi ha inventato sta cosa non si saprà mai. Vedi, una risatina che è diventata... Qui si c'era in 50... Vabbè, è la drammaturgia, i tre atti, il viaggio dell'eroe, porca puttana, e tu non mi ascolti il finale. 1490. Certo che c'entrava, però ti lascerò col dubbio. E vabbè, io ho detto un sacco di cose sulle mie origini. Tra l'altro una cosa bella, e poi chiudo, il paese è uno di quei posti dove a me a 11 anni è capitato di vedere una signora cagare per strada. Ed è stato strano, perché sta signora, adesso credo sia morta, abitava esattamente di fianco alle scuole elementari con il cancello, che la strada era una, quindi i cancelli sono quelli che danno esattamente sulle strade, poi c'è tutto il cortile eccetera eccetera. Io ero a casa del mio amico Emanuele, che dovevamo disegnare, fare una roba, torno indietro per prendere i pennarelli a casa mia in bicicletta, nel tornare indietro vedo sta signora qua accovacciata fuori dal cancello che stava cagando. Quando io avevo 11 anni. Lascerei con queste immagini, Nel 94. Sì, ne ho 83, sì. Sì, 11-12, adesso non ricordo esattamente. Mi dica. Ma l'hai vista altre volte? Certo, ma mi ha salutato. Ve lo giuro. No, non era un po', ovviamente, come si dice da noi, qualche venerdì le mancava. Ah, come si chiamava? La voglia salutare? Credo Carla, a memoria. Sì, è di casa sua, ma lei però tecnicamente era sulla strada, quindi suolo pubblico. Però anche nel giardino di casa tua credo che non sia una cosa ben vista. No, ma io con questa cosa qua mi stavo congedando e chiamavo sul palco quell'eroe di Alberto Vitale. Vado io, scusate, però qualche attinenza. No, io già che volevo raccontare anch'io qualcosa a sto punto delle mie origini, perché ho alcune attinenze con Andrea. La prima di queste è mia mamma. Mia mamma era una fanatica delle pulizie. Pensate che... No, mia mamma era una fanatica. Mia mamma era una fanatica delle pulizie, tanto che quando andava a cagare non voleva sporcare il water, andava in provincia di Mantova. Ci teneva a dire questa cosa. Nel 1490. No, allora... sì, io no, avevo delle analogie con il pezzo di Enrico, scusa, con le cose di Andrea. Perché lui è dell'83, io sono del 73, quindi sono esattamente 10 anni più grande. Sì, vecchio, e quest'anno compio 50 anni. E 50 anni è un momento di grandi riflessioni, quindi è un momento per l'uomo in cui fa il bilancio della propria vita. Io penso sicuramente in questi, quando compirò insomma in questo periodo, sto pensando a tutti i miei rimpianti. È normale, insomma, i rimpianti, che per un uomo vuol dire essenzialmente che vorrebbe aver scopato più ragazze. E sto pensando ai miei rimorsi anche, che per un uomo vuol dire sostanzialmente che vorrebbe aver scopato più ragazze, però belle. A 50 anni mi rendo conto di non aver fatto niente nella vita, in realtà non aver fatto assolutamente un cazzo, e mentre molte altre persone a meno di 50 anni non avevano già fatto tanto. Kennedy era presidente a 42 anni. Martin Luther King a 36 anni ha preso il premio Nobel per la pace. Che Guevara a 35 anni ha inventato la posa per Instagram, no? Quella che guarda, sguardo fiero, che guarda lontano. Io non ho combinato nulla, devo essere sincero, nella vita. C'è da dire però che Kennedy è morto a 46 anni, Che Guevara a 37 e Luther King a 38, quindi non fare un cazzo allunga la vita. Questo era per anticiparvi questa cosa. Va bene, nient'altro che dire più. Io ho fatto l'infanzia, io sono nato a Bologna, quindi Andrea ha citato Bologna, io in effetti sono nato a Bologna. Bologna è una città straordinaria per chi la conosce, una città molto bella, che però ha una sua vita sotterranea, una vita fatta di invidie, di lotte clandestine, di offese. Bologna infatti è piena di circoli del PD. Bologna è schierata politicamente, io a Bologna avevo il mio soprannome, mi facevo chiamare all'epoca El Che, perché ho fatto solamente metà del CEPU, poi ho abbandonato, quindi niente. Poi dopo Bologna, dopo i primi anni a Bologna di infanzia, sono andato un po' all'estero, ed è stata dura la mia età, insomma, andare all'estero a 18 anni, insomma, dovevi imparare una lingua nuova, usi e costumi. È stata dura, però alla fine dopo 6 mesi a San Marino, devo dire, mi sono ambientato ed è andata bene. Qualcosa che riguarda un po' la mia infanzia per collegarmi ad Andrea. Lui ha parlato prima di cani. Allora, io per un periodo, quando ho vissuto da solo, ho mangiato cibo per cani. Può sembrare strano, però quando un uomo vive da solo ci passa tranquillamente. Ludovica, tu per fortuna c'hai Maddalena che ti prepara da mangiare, io no. Ho mangiato cibo per cani per un po', non mi ha dato particolari problemi, diciamo, se non il fatto che quando incontravo un mio amico, invece di stringergli la mano, come prima cosa gli annusavo il culo. Nella mia vita ho fatto tante cose, mi sono successe tante cose. Una volta ho stato anche morso da un serpente velenoso, da una vipera, è vero, ero in un bosco insieme a un amico. Eravamo seduti lì a berci una birra tranquilli, quello con il nostro bicchiere tranquilli. È saltata fuori questa vipera improvvisamente, mi ha morso un braccio, una storia triste, assolutamente vera. Però sapevo cosa fare, fortunatamente, quindi succhiavo e sputavo, e alla fine sono riuscito a salvarmi, come vedete sono qua. L'unico problema è che sputavo nel bicchiere del mio amico, quando ha bevuto la birra è morto. Però sono cose che in amicizia possono succedere. Parlavamo di animali domestici. Io, com'è di animali domestici, è bello il cane, assolutamente. Io amo gli animali intelligenti, devo dire la verità. Però per me il cane non era abbastanza intelligente. Quindi io come animale domestico volevo un delfino. E così l'ho rapito all'acquario di Genova e lo tenevo nella vasca da bagno. È stato un periodo molto bello per me tenere questo delfino, anche se poi ho scoperto che era meno intelligente di quanto si pensasse. Un giorno gli avevo chiesto qualcosa sulla teoria economica mondiale e lui mi ha risposto "Purr, purr, purr!" E ci sono rimasto male perché era la teoria dell'anno prima. E poi era aprile, diciamo, il mese in cui di solito faccio il bagno, quindi diciamo ho tirato un attimo fuori il delfino, mi sono messo a fare il bagno. Poi a me piace fare il bagno con calma, capito, quelle cose con le candele, le luci soffuse, la musica, un bicchiere di vino. Così e niente, quella sera abbiamo mangiato tonno. Il delfino poi niente, è andato, ci ha lasciati, sono passato a un altro animale molto intelligente, devo dire sono molto contento del mio animale domestico in questo momento, ho un calabrone, è un calabrone davvero molto molto intelligente. Voi sapete che la struttura alare del calabrone in rapporto al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Il mio calabrone è molto intelligente, lo sa e quindi non può volare, quindi attenzione perché gira qua per il coso, cercate di non pestarlo. Perché mi farebbe molto molta tristezza, perché gli voglio molto bene. Nient'altro, che altro dirvi sulla mia infanzia, mi ricordo il periodo di quando ero bambino, un periodo molto bello, il periodo in cui ci si scambiano anche i bigliettini tra i vari bambini, con scritto ti vuoi mettere con me? Sì, no, voi che siete giovani probabilmente ancora lo farete. Io mi ricordo che all'epoca c'era, a me mandò un bigliettino la figlia, si chiamava Elena, la figlia di un promotore del comitato referendario, e nel suo bigliettino c'era scritto: vuoi abrogare la nostra relazione interpersonale verso una forma più duratura di amicizia? Sì, no. Niente, non sapevo se sì voleva dire no, no voleva dire sì e non ho mai risposto e alla fine purtroppo non abbiamo avuto nessuna storia d'amore. Niente, passano gli anni per arrivare così, perché in realtà non, anch'io non ero preparato a tutto questo. E, vabbè, ho fatto vari lavori, lei lo sa perché, loro lo sanno perché sono già in questo pezzo. Ho fatto vari lavori nella vita, ho fatto anche lo spogliarellista per un periodo, per allenarmi a fare lo spogliarellista. Ho fatto anche dei corsi di danza con un ballerino molto famoso, Roberto Ebola. Facevamo una lezione di ballo e facevamo 40 giorni di quarantena. E, alla fine ho lavorato come spogliarellista, devo dire, ero sponsorizzato dalla Tonno Nostromo, quindi entravo in scena con il corpo completamente rivestito di olio, olio del tonno, ed era bello, mi toglievo i vestiti, me li strappavo, li lanciavo al pubblico. Un giorno ho fatto questa serata per una discoteca frequentata da Colf Filippine, io li lanciavo i vestiti e loro me lo tiravano indietro lavato e stirato. Per quanto riguarda i vestiti, devo dire, non ci tengo molto all'abbigliamento. Io compro i vestiti da poco, come vestiti usati al mercato, quelli da 2 euro, e ho il sospetto che siano usati, perché anche stamattina, quando ho messo questa maglia, c'era ancora uno dentro. Va bene, che altro cagato dirvi? Qualche cagata. Vi lascio con una lettera che ho scritto per la mia ipotetica fidanzata, ma in realtà è una premessa assolutamente inutile, perché è un pezzo assolutamente di repertorio classicissimo, quindi tanto oggi possiamo assolutamente rivelare un po' tutto. E, ah, ma non è davvero la mia fidanzata, no. Cioè, dopo 10 anni? No, scappi questa cosa, sì. Sono stato per un po' con una ragazza molto carina, una ragazza acqua e sapone, ogni volta che la abbracciavo mi sgusciava via. Caspita, oh! Era una ragazza molto bella, però devo dire molto narcisista. Quando andavamo a Luna Park nel labirinto degli specchi, lei usciva dopo 3 ore, ma non perché non trovava l'uscita, ma perché si specchiava in ogni specchio del coso. Va bene, vi dico... No, ci tengo a dire un'altra cosa che volevo dirvi... Vabbè, non ve la dico. Ve la dico dopo nel secondo ingresso. Tanto farò un altro ingresso. Va bene. Cara Elena, mi manchi. Sì, perché voi dovete sapere, tra l'altro, questo è il repertorio che io faccio da anni, e a fare pure le stesse cose, uno si rompe i coglioni in una maniera pazzesca, però stasera ci sta. È solo per Ludovica, Maddalena, Paolo e Margherita, perché voi sapete già questi pezzi. Francesca! Ma Francesca li sa, Francesca c'era anche la nostra serata. È il migliore, Francesca. No, allora fai. C'è anche voi, eh. Allora, faccio il pezzo 3 del repertorio, allora. Ma dovevi farlo nell'uscita dopo? No, questo lo faccio adesso. Però lo cambio in modo che anche Francesca senta la roba nuova. Però essendo il pezzo 3, sappiate che è il più debole dei tre. Sulla fiducia il primo era più bello. Tengo apposta. Ma sì, dai, facciamo questo. Oh, Albi, se c'hai voglia. No, vabbè, stasera non si può non avere voglia. Fatto, vi rivelerò, giusto perché Francesca sa tutto, che ho gli occhiali, perché a 50 anni in realtà c'è un calo della vista abbastanza notevole. E l'altro giorno sono andato a prendere mia figlia alla materna, l'ho portata a casa e ho aperto il libro, ho detto dai amore ti leggo un libro di favole, ho aperto il libro, poi ho guardato mia figlia e mi sono reso conto del problema della vista, perché non era mia figlia, avevo preso la figlia di qualcun altro. E poi sono seguiti i processi per rapimento, le solite cose. Perché mi ha detto, vabbè, grazie, hai chiesto dei soldi. Vabbè, già che ce lo volevo monetizzare. Allora, cara Elena, mi manchi. Questo è solo per Francesca che sono inedite. Inedite per te, ma anche questi le faccio da almeno 10 anni. Due maroni, pazzeschi. Mi è sempre piaciuto il tuo modo di... Ma questo, anzi, le dedicherò a Francesca. Ciao Francesca. No, cara Francesca, mi manchi. Mi è sempre piaciuto il tuo modo di parlare schietto. Sei una che non ha peli sulla lingua. In compenso, ne hai un sacco sulle gambe. Ricordi quando insieme ridevamo del fatto che le ragazze belle hanno sempre amiche cesse e tu hai solo amiche fighissime? Quanto sesso facevamo insieme. Ci piacevano i giochi erotici. Così spesso giocavamo al dottore. Però quello della mutua. E per fare sesso dovevo prenotarmi 8 mesi prima. Ti ho sempre vista come una dea, Francesca. Come un animale mitologico. Hai l'eleganza della pantera, la voce da usignolo, il coraggio da leone, per non parlare del tuo culo da balena. Una cosa che trovavo molto sexy è quando nell'intimità mi mordevi l'orecchio e subito dopo mordevi il tuo. Ma come cazzo facevi? Ricordi quando costruimmo quella casetta per uccellini. Era inverno e tu volevi stessero al calduccio. Ogni mattina uscivo e trovavo un uccellino morto sotto la casetta. Forse non è stata una buona idea mettere una porta blindata alla casetta, Elena. Francesca, non si... Mi manca il piacere di accarezzarti prima i capelli, e poi giù fino alle labbra, e poi giù fino al mento, e poi giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, fino al seno. Francesca, che collo lungo che avevi! Quanto ci piacevano gli animali. A te piacevano i cavalli, a me i cani. E questa passione ci coinvolgeva anche nel taglio di capelli. Tu infatti li portavi sempre con la coda di cavallo ed io a cazzo di cane. E poi ci siamo lasciati. Nell'ultimo periodo ricordo che quando io uscivo per andare al lavoro entravo in casa l'idraulico. Andò avanti per un mese perché tu mi dicesti che non si riusciva proprio a trovare la perdita. Alla fine venni a sapere che era il tuo amante. Ricordi che sospiro di sollievo dirai avevo paura che ci avrebbe fatto pagare un sacco. Vai, vai, passo, passo, passo, passo a Harry. Vai, Harry. Da Ludovico si è alzato per andarsene, è un classico. Vabbè, ma dai, ma allora fai apposta. Intanto il Napoli ha perso? Ha vinto. Ah, ma ha vinto o ha pareggiato? Ha pareggiato, ma è campione. Va bene, dai. Allora, dai, festeggiamo così. Oh, sono andati via tutti. Tutti? Vabbè, lascia perdere. È andato bene il mio pezzo, dai. Scusate, dovevamo aspettare. Aspettiamo, sono andati via. Tre quarti di pubblico. Uno è tre quarti di pubblico, però è tornato. No, è andata via anche Francesca. Sta anche, sta guardando il cellulare. Ma Francesca sarà qua. Vabbè, io mi sono divertito abbastanza comunque. Dai, vai, vai, vai. Quella gran nuova. Ma dobbiamo chiamare Francesca poi, se è il caso? Teniamo questo silenzio sul palco. No, no, vado, vado, dai. Ma non voglio fargli pesare sta cosa che la stavo aspettando. Ciao piccolini, benvenuti, bentornati, grazie. Buonasera, sono Harry Veronica e io in realtà, è bello perché inizio tutto sprint, ma avete visto anche, in realtà non sto bene io, proprio fisica. C'è un medico in sala, possibilmente un urologo. C'è un pianista secondo me. No, no, sento un impellente bisogno di un controllino alla prostata. Sì, sono uno di quelli, come molti voi, che lavora molto meglio con delle dita infilate su per il culo. Non fate i santarelli, eh. Cioè, lo sappiamo tutti che qualsiasi performance migliora grazie alla stimolazione anale. Cioè, tu dall'arte drammatica allo sbrinare il freezer, tutte migliorano. Ora, io comincerei parlandovi di sapiosessualità. Chi sono i sapiosessual? Ora, i sapiosessual è una categoria di questo secolo, eh? Questo secolo è quello che è cominciato nel 2000. Per chi si fosse distratto. Ora, i sapiosessuali sono quelle persone, quegli individui, quella gente che hanno delle forti pulsioni carnali, sessuali, erotiche verso gli altri per l'intelligenza degli altri. Io, per esempio, sono un sapiosessuale, qua mi viene in aiuto anche il pezzo di Alberto Vitale. Scusa, posso dire che sembra che sia tutto improvvisato, ma è tutto collegato. Tutto collegato. Io sono un sapiosessuale perché infatti mi tromberei anche i delfini. Ora, che appunto abbiamo detto che sono animali molto intelligenti, in più hanno anche quell'altro buco in testa, no? Che, cioè, lascia presagire delle pratiche erotico-sessuali nuove, entusiasmanti, no? E poi mi immagino quel momento, e qua lo interpreto molto, in cui nell'intimità del lenzuolo gli dico: "Toh, queste sono le mie palle, giocaci". Ora, e qua ho spiegato il sapiosexual, questo, e ve lo dovevo. Questo è il sapiosexual, ve lo dovevo. Ora, è bello perché ho parlato del sapiosexual, e anche, insomma, però... Ve l'ho spiegato molto bene e ho anche parlato in maniera di sesso con gli animali, che è una cosa che in realtà di cui parlo spesso, no? È una cosa di cui parlo spesso. E... ma voglio no, aspetta, zitto, per favore, devo tornare. Allora, io, siccome questo pezzo non, è, non lo faccio da 10 anni, ma lo sto facendo da 3 minuti per la prima volta, zitto. Ora, ora, no, anzi, tu puoi parlare. Però se vuoi parlare facciamo altro. No, no, vai, vai. Volete sentire il pezzo? Facciamo altro. No, no, no, no. Perché lo sapete che sull'altro io do alla grande, eh? Comunque. Allora, stavo dicendo, torniamo al clinico. Ah, no, perché sapete, io quando parlo di aneddoti clinici, sesso con gli animali, do il meglio di me, eh? Do proprio infatti, perché è lì perché Netflix o qualche altra grande major, chissà perché non produce una bella serie TV che parla di veterinari che molestano sessualmente i loro pazienti, no? Che a scrivere diventerei miliardario a scriverla e non la ma perché i bei soggetti non hanno successo. Vi dicevo, parliamo di cose cliniche. Io voi mi vedete così splendido, una personcina a modo, tranquilla, anche vabbè, anche una bomba sexy, ma quello è un altro discorso. Ma ho anche i miei momenti no, depressione, ansia, che sono i mali di questo secolo, sempre quello di prima. E sono andato da uno psicologo, questa è una storia vera, ragazzi. Sono andato da uno psicologo, è stata una cosa abbastanza deprimente e tra l'altro assolutamente, cioè, banale, cioè, mi ha fatto la vera domanda. Signor Veronica sono io, ha visto i suoi genitori fare sesso? Ho detto sì, mi spiace dottore, li sto vedendo, però mi volevano accompagnare, si sono eccitati, però è anche colpa sua, si faccia un esame di coscienza dottore, lei non cambia mai le riviste in sala d'attesa, sono vecchie di 40 anni, mi dica lei se uno vede una foto di Gegia o Fiordaliso in topless se non si eccita. E i miei genitori non sono fatti di sasso, non sono fatti di legno, dottore. Anche questo l'ho spiegata bene. Ora andrei a concludere un po' come ho iniziato, cioè nel disinteresse generale. No, però con una sequenza, ecco, una sequenza di battute, mini pezzi che tra i miei peggiori. Qualcuno di questi potrebbe non suonarvi nuovo, perché sono battute che ho allegato, ho pubblicato anche nei miei scoppiettanti reels che pubblico sui social. In realtà vado tranquillo, perché i miei scoppiettanti reels li vedono 2 persone in tutta Europa. Uno tra l'altro è il dottor Manuelov, che è un urologo di Sofia, che non penso sia in sala, perché se è in sala è uno stronzo. Cioè, perché io ho fatto un appello per un urologo a inizio pezzo, però, Ma siete un po' strozzi anche voi, però. Io non vi ho chiesto mai niente, vi chiedo qualcosa, no! Non vi chiedo mai niente, vi ho mai chiesto qualcosa, no! Non vi chiedo applausi, ve li ho mai chiesti, non ve li chiedo. Vi chiedo risate, no, non ve li ho mai chiesti. Non vi chiedo approvazioni, non vi ho chiesto niente, un urologo vi ho chiesto! E neanche quello mi avete dato! Anche quello mi avete negato! Ora, il primo pezzo in realtà è abbastanza anziano, ma è anche attuale. Ogni anno nel mondo piangono centinaia di statue della Madonna. Non si è mai capito il vero motivo. Felicità, tristezza, isterismo, non si è mai capito. Ma piangono. Nel 1972, forse Francesca la conosce, ha visto Reel Incriminato, è la seconda persona in Europa. Nel 1972 un pazzo è entrato a San Pietro, scusate se faccio a meno del microfono, armato di mazzetta e si è avventato sulla splendida Pietà del Michelangelo, tranciando diretto il braccio, l'altra parte del volto della Santa Vergine. Oh, sta Madonna non ha fatto un fiato, Neanche una lacrimuccia, niente. E qua ritorna il microfono. Perché vi dico questo? Perché probabilmente nel mondo le statue della Madonna, cioè, hanno una soglia del dolore diversa, differente, tutto lì. Ora vi dico un micro pezzo che mi assomiglia molto, davvero, perché col passare degli anni è già di qualche, diventa sempre più brutto e incomprensibile. Ora sta invecchiando malissimo anche lui. È un consiglio. È un consiglio che faccio ai maschietti, ma anche alle donne, se ci sono in sala con la voce particolarmente roca, fumatrici, scompensi ormonali, non voglio indagare oltre. Ora, il consiglio è questo. Quando vi svegliate, la interpreto molto, qualsiasi ora sia, schiaritevi la voce. È facile, è semplice. Molti otorini laringoiatri dicono di non farlo, io vi dico fatelo. Ragazzi, come ho detto, Torino laringoiatra, tra l'altro, scusate! È facile. Perché se vi svegliate, non vi schiarite la voce, andate al primo bar sotto casa, magari un bar cinese, e ordinate un caffè, una cosa normalissima appena svegli, ma siete ancora incatramati con la voce del mattino, invece di un ordine uscirà dalla vostra bocca una roba tipo che ti senti morire in quel momento, che ti senti morire, lo dico proprio come Vanna Marchi. E il barista cinese te lo fa pesare, sì. E il barista dice, tanto il barista... No, il barista cinese te lo fa pesare. Ti sbatte lì il caffè sul banco, come dire, guarda cosa devo fare per guadagnare 2 centesimi in un paese che non perde occasione per denigrarmi, devo pure decodificare un ordine da un... sputato sul bancone senza poesia. Il barista cinese te lo fa pesare, ti fa lo scontrino, che ha 10 anni che va in quel bar, lo sa che non sei della lunare, lo sa che non sei della finanza, ti fa lo scontrino, quello scontrino è un segnale, quel piccolo pezzo di carta è un segnale di grande strappo, sta a significare io non so chi sei. Di più sta a significare, oh no, barbaro mongolo, non verrai mai da quest'altra parte della muraglia per saccheggiare la mia millenaria saggezza e i miei tesori, che poi basterebbe fare e tutta sta roba te la spanghi, è semplice, fatti come me. Ora, in realtà il pezzo finiva qua, però siccome secondo me dobbiamo un po' allungare, secondo me è meglio se poi magari faccio un'altra, ci penso su, e fa, anche perché non so se avete, questa roba del barista cinese mi sderena, potrei fare proprio il colpo di grazia e attaccare a questo in chiusura un'altra battuta che io interpreto molto, premetto, e che mi toglie 5 anni di vita ogni volta che la faccio. L'ho fatta così tante volte, sarei dovuto già morire da un pezzo. Potrebbe essere la volta buona che muoio, però, mentre la faccio. Se non muoio, però, ci dividiamo tra 5 anni. Perché io voglio morire davanti a voi? Ormai è una mission! È la mission, è ormai la mission. Allora, non so se vi capita quando uscite. Per caso, torniamo a parlare di cani, tanto per cambiare. È bellissimo che siamo riusciti a parlare, siamo in 3 comici dell'intelligenza del delfino, però. Aspetta, Silvia adesso. Spero che anche lei abbia un pezzo sui delfini. Allora, avete presente quei cani, no? Quei cagnolini, no? Quando andate in giro con un cagnolino c'è una donna, generalmente, che fa questa domanda. È un cucciolo. Non so se avete notato anche con che saggezza di voce. Che... ma che carino! Ma questo poi come diventa? È un cane. Cosa cazzo deve diventare? È un cane! Cosa cazzo deve diventare? È un cane! Cosa cazzo deve diventare il bancone del surgelati dell'S lunga? È un cazzo di cane! Lo vedi? È un cazzo di cane! Cosa deve diventare Borghezio? È un cane! È un... Non me la fate fare più questa del cane! Non me la fate fare più questa del cane! Non me la fate fare più! No, scusate, volevo solo dire che siccome Ludovico sono due volte che va a prendere da bere al bancone, volevo chiedere se prima di andare a prendere il balcone fai... Perché altrimenti è un casino qua, eh? Va bene. Allora, Silvia Conti. Oh, bella Silvia! L'unica presentata addirittura, Però devi farci un pezzo sui cani o sui delfini, Sono molto emozionata per essere stata presentata in questa serata rigorosa e se non ho capito male è una serata dedicata ai nostri traumi dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi sono molto felice di poterne condividere anche io uno con voi. Il mio trauma è che ai tempi della scuola non ero proprio la reginetta della classe. Lo so che non si direbbe, che vedendomi oggi pensate tutti a chissà che figa che era quella al liceo. No, è incredibile. Io portavo sempre una di quelle tute in acetato che andavano di moda negli anni 90, nera e arancione, tipo Adidas, ma tarocca, con la felpa troppo grande e i pantaloni troppo corti sopra la caviglia che mi avevano permesso di vincere il titolo C'hai l'acqua in casa, che veniva assegnato nei corridoi della scuola. E poi avevo gli occhiali, come adesso, l'apparecchio ai denti, i punti neri, i brufoli, un monociglio come quello di Teo Teocoli, a mai dire gol. Possiamo dire che ero un pochino sfigata per i canoni estetici degli anni 90, anni in cui dominavano dei modelli femminili come Brenda Walsh e Kelly Taylor di Beverly Hills 90-210. Io, guardando quel telefilm, potevo al massimo identificarmi con Andrea, che era la secchiona, occhialuta, sfigata ed ebrea. L'identificazione svaniva nel momento in cui, a un certo punto del telefilm, anche Andrea riusciva a limonare. Io no. Era il 1994, avevo 12 anni e questi sono i secondi che vi lascio per calcolare la mia età attuale. 41 anni, non si direbbe, eccetera, lo stesso discorso di prima. Era l'estate del 1994 in particolare, quando le mie amichette mi registrarono la prima musicassetta e sulle canzoni contenute in quella cassetta io plasmai i miei primi desideri erotici e l'immagine della donna che sarei voluta diventare e come mi sarei dovuta comportare nel mondo delle relazioni con l'altro sesso. Era una cassetta degli 883. E questo può spiegare molto della mia vita. La prima canzone era Sei un mito, che più o meno tutti avrete presente. La canzone inizia con tappetini nuovi, arbre magique, deodorante appena preso che fa molto chic. Erano due versi a cui all'epoca io non davo grande importanza, ma che oggi mi provocano uno shock olfattivo ogni volta che li riascolto, perché non riesco a pensare a un mix peggiore di quello tra un deodorante per auto appena comprato e un ventenne pavese arrapato che si è cosparso di dopo barba secchiate che si mescolano nell'abitacolo di un'automobile, quasi sicuramente un'utilitaria, anzi quasi certamente una Panda ereditata dal nonno che fino al giorno prima la usava per trasportare il letame nella campagna pavese. Nella canzone i due vanno al bar perché il pezzente Pezzali, nome nomen, la tipa non la porta neanche a cena fuori. Comunque anche io a 12 anni mi sarei accontentata di andare al bar pur di riuscire a limonare. Quello su cui concentravo la mia attenzione era nella seconda parte della canzone, quando a un certo punto lei gli dice «Dai, vieni su da me, che intanto non ci sono i miei» e lui si ferma a prendere una bottiglia perché vuole festeggiare questa figata. Il mio problema di dodicenne col monociglio e la tuta arancione in acetato era che i miei genitori la sera non si schiodavano mai da casa, soprattutto il sabato sera quando Rai 2 trasmetteva degli ottimi film TV tedeschi. Mi chiedevo come avrei fatto una volta che un mio eventuale ospite mi avesse portato al bar e poi mi avesse chiesto di andare a stappare a casa mia una bottiglia. Nel dubbio, quando rimanevo a casa da sola anche solo per 5 minuti, io collaudavo ogni possibile location dove avrei potuto stappare la bottiglia del mio ospite e quindi provavo sul mio lettino, sul copriletto rosa, tra i peluche, poi provavo sul letto dei miei genitori senza alcun rispetto per il giaciglio dove ero stata concepita e poi provavo sul divano e mi chiedevo se sul divano si potesse fare un amplesso e soprattutto come era previsto che si svolgesse un amplesso, perché Pornhub doveva ancora arrivare, e cioè la nostra attestata medico-scientifica di riferimento non pubblicava mai dei fotoromanzi sufficientemente esplicativi. L'importante mi era chiaro che una volta raggiunto il mio obiettivo, cioè appunto la bottiglia del mio ospite, mi sarei dovuta attenere al comportamento che tanto arrappava il Pezzali in quella canzone. Io e il mio ospite avremmo dovuto essere un ragazzo, una ragazza senza paranoie, non dirci io ti amo, io ti sposerei, ma solo avere voglia di stare bene tra noi, anche se soltanto per una sera appena. Risultava quindi evidente che avrei dovuto darla via una volta sola, ma senza rompere i coglioni, e avrei potuto avere la possibilità di diventare il mito dell'intero quartiere, o almeno della sala giochi Jolly Blue, dove il mio ospite al suo ritorno avrebbe raccontato quasi un porno. Dalla seconda canzone contenuta in quella cassetta ricevetti degli importanti consigli in fatto di moda. La canzone era Lasciati toccare. Diceva che mi serviva un vestitino nero che mi avvolgesse stretta, così stretta che si vedesse quasi tutto, e un condizionatore che mi respirasse vicino, in modo che il freddo potesse far apparire qualcosa sul mio seno. Una volta trovato il vestitino nero e trovata la bocchetta di un condizionatore sotto cui collocare spontaneamente i miei capezzoli, avrei dovuto mettere in atto la gestualità che tanto arrappava il Pezzali in quella canzone. Avrei dovuto accarezzare la mia gonna con la mano. In assenza del vestitino nero, che aveva anche Brenda Walsh, ma che mia madre non mi comprava perché diceva che era da zoccola, e anche in assenza del condizionatore, perché comunque questa storia si svolge nella Liguria degli anni 90, al limite c'erano delle pale al soffitto, ma comunque non venivano mai accese perché i ristoratori liguri sono tirchi in fatto di elettricità. In assenza di questi due elementi, io iniziai da subito a provare questa gestualità sui pantaloni della mia tuta arancione in acetato, e non capivo perché nessun ragazzo mi si avvicinasse, conquistato da un movimento tanto sensuale, e ancora ignoravo di quanto l'acetato potesse essere facilmente infiammabile a seguito dei ripetuti sfregamenti. La cassetta si chiudeva con Te la tiri, un'opera sottovalutata del primissimo Pezzali, che ritrae alla perfezione il prototipo della figa di legno della provincia italiana degli anni 90. La canzone elencava tutti i comportamenti che non avrei dovuto mettere in atto se avessi voluto avere e tenermi un uomo. Nell'ordine: mai parlare di oroscopi, mai ballare in un modo che non c'entra niente e mai arrapare la gente senza poi concedersi. Questa canzone è stata la voce che mi ha guidata, che mi ha ispirata nella seconda parte della mia giovinezza, quella parte della giovinezza senza più la tuta arancione in acetato, senza l'apparecchio ai denti, ed è stata la canzone che mi ha ispirata a darla via a chiunque, ma proprio chiunque me l'avesse chiesta. Del resto, gli unici tre modelli femminili teorizzati dal Pezzali ed elencati in rotta per casa di Dio sono fidanzata, moglie, troia. Non so voi a 12 anni al mio posto, tra i tre, quale avreste scelto come modello femminile a cui tendere, ma ecco, se sono cresciuta un po' zoccola, mi sento di dare la colpa a Max Pezzali. Grazie. Silvia Conti. Qui i comici mi chiedono se facciamo un altro giro, perché noi ci siamo scaldati. Se voi avete pazienza, andiamo avanti ancora un pochino, no? Cosa dite? No, non troppo, il giusto, il giusto. Facciamo ancora un intervento sobrio come prima, una roba posata, qualche... Mi piace che mi coinvolgi quando c'è la poesia. E... No, vabbè, quindi questa è la serata un po' dei ricordi, a Marcord dell'infanzia, e quindi racconto sempre una bellissima storia di provincia, di paese, una storia che è successa all'incirca una ventina di anni fa, quando avevo 20 anni. E appunto, come ho detto prima, il paese è un po' un mondo particolare, un po' un microcosmo, e la particolarità che ha il paese è che ti conosci tutti, ovviamente, quindi saltano un po' le gerarchie date dall'età, salta il concetto di conoscere solo i propri coetanei, conosci tutti, e quindi conoscendo tutti capita molte volte che si va a fare serata con persone che magari hanno anche 20 anni più di te. E quindi questa storia che vi racconto è successa 20 anni fa, quando io avevo 20 anni, e coinvolge altre tre persone. persone. La prima persona coinvolta insieme a me si chiama Marco, all'epoca, anzi ha sempre la mia età, all'epoca quindi ventenne, e all'epoca aveva i capelli a spazzola con le mesh bionde e faceva il camionista. Ora nel 2023 ha ancora i capelli a spazzola con le mesh bionde e fa il camionista. Quindi è un ragazzo coerente, è un ragazzo che non ha cambiato. Insieme a noi poi c'erano Alberto, all'epoca quarantenne, quindi vent'anni più di me, e Alberto è un signore tuttora vivente tetraplegico in sedia a rotelle con un cappello rosso della Ferrari sempre in testa. In poche parole, Jean Todt nelle stesse condizioni di Stephen Hawking. Se non sapete chi è Jean Todt, Alvaro Vitali nelle stesse condizioni di Stephen Hawking. L'ultimo del gruppo era Igor, all'epoca 22 anni, quindi due anni più di me e di Mirko. Igor è un bravissimo ragazzo, un ragazzo squisito, un ragazzo di una gentilezza davvero coinvolgente, però ha un difetto, poi ha una particolarità, lui per sua stessa missione ci gioca molto su questa cosa, è brutto, è un ragazzo oggettivamente brutto, però è brutto non in modo canonico, è brutto in un modo un po' particolare. E visto che Igor è sì brutto, ma anche molto autoironico, e non è una cosa che si trova in tutte le persone, soprattutto in quelle belle, ha coniato per sé una definizione geniale. Lui dice di se stesso: io sono talmente brutto da essere a tanto così dal confine con il ritardo mentale. Se noi fingiamo per un attimo che il ritardo mentale è la Francia, Igor è Ventimiglia. A tanto così. Ma lui di se stesso dice questa cosa qua, ci ha sempre giocato, non è mai stato un problema, e chi siamo noi amici per non giocarci sopra? Quindi questo è l'antefatto, persone il gruppo. Una sera di vent'anni fa ci troviamo a mezzanotte e mezza, dopo una cena molto ignorante e ovviamente alcolica, in questo paese di 2000 persone, e le possibilità, soprattutto nel fine 90-2000, di fare qualcosa a mezzanotte e mezza in un paese di 2000 persone sono pressoché nulle. Eravamo in compagnia di questo signore tetraplegico, e quindi non è che i signori tetraplegici escano tantissimo, cioè non è che fanno proprio la vita mondana, quindi volevamo un po' andare incontro a quello che voleva fare lui, esaudire un po' il suo desiderio. Il problema è che questo signore quella sera è voluto andare al night. Io non so quanta dimestichezza qua ci sia tra il pubblico, cioè sono un ragazzo quindi e credo che mi rivolgerò a lui, infatti perché fare sto pezzo, però... sono quelle cose sempre del cuore oltre l'ostacolo. Quante dimestichezza abbiate col night, però i nightclub sono quei posti dove tendenzialmente gli uomini pagano da bere a delle ragazze per tutta la notte e poi non concludono un cazzo, o come li chiamano gli uomini, appuntamenti. Ma in un'altra maniera si chiamano sinonimi. Quindi abbiamo scelto un night che non era proprio il Carlo Cracco dei night, vi dico la verità. Non era proprio il night più di livello. E visto che il problema un po' del night è quello di farsi spillare i soldi, perché l'unico scopo delle spogliarelliste del night è quello di, giustamente, andate lì, è quello di portarvi via più soldi possibili. E le spogliarelliste, visto che sono sgamate, visto che lo fanno di professione, al contrario delle ragazze normali, cioè usano dei trucchi incredibili, tipo la gentilezza. E se un uomo non è abituato a ricevere parole gentili da una donna, gli parte la trebisonda. E quindi fa tutte quelle cose che non deve fare. Quindi, visto che eravamo ubriachi, stavamo andando al night, ma comunque siamo uomini di mondo, abbiamo detto: non portiamo il bancomat, non portiamo la carta di credito, portiamo i 10-15 euro per l'ingresso, c'è la consumazione, tanto andiamo lì, stiamo lì 2 ore, cazzeggiamo, finita lì. Eravamo tutti d'accordo. L'unico che decide di portare la carta di credito è Mirko, il camionista, quella sera che doveva guidare, che un po' per la deformazione professionale, non si sa mai sulla strada quello che può succedere, ci porta una carta di credito. Ci sta, non fu una bella idea. Arriviamo al night, ripeto, non un Carlo Cracco dei night, siamo io, uno con le punte bionde, uno molto brutto da sembrare un ritardato e un signore di 40 anni in carrozzina. Sembriamo gli Avengers della 104. Uno scenario inguardabile. Arriviamo all'ingresso e il buttafuori giustamente ci squadra un po' per quello che siamo, però abbiamo i 10 euro, paghiamo, entriamo e ci buttiamo dentro il night, iniziamo un po' a bere, l'unica consumazione che abbiamo. Fortunatamente il mondo del night è fatto da vecchi papponi con i soldi che vanno lì, prendono i tavoli e appena si avvicinano a spogliare la lista di turno molte volte lasciano il tavolo incustodito, ed è una cosa ottima se tu non hai soldi e vuoi andare a bere gli avanzi, che è un po' triste come cosa, ma già che non eravamo nel Carlo Cracco dei night, potevamo permetterci anche quello. La cosa da tenere bene appunto presente è Night, che appunto la ragazza userà gentilezza, accortezza e moine per farti spendere più soldi possibili e soprattutto per portarti dal luogo fisico in cui sei tu all'interno del privé, dove tu sarai da solo con la spogliarellista e quindi sarai totalmente vulnerabile. La ragazza per portarti da quel posto lì a quel posto lì farà di tutto e quindi se tu cedi sei finito. L'unica cosa da fare per mettere subito le cose in chiaro quando arrivi al night è quella, quando ti si avvicina una ragazza, di alzarti davanti a tutti e urlare "io non ho soldi", in maniera un po' alla Gasman, no, teatrale, e tu in quel momento avrai la reputazione che ha Brumotti al parco di Rogoredo. Se non ti menano è tanto, perché sei proprio lì a far perdere del tempo delle oneste professioniste che stanno lavorando. Comunque siamo al tavolo, beviamo gli avanzi, però chiaramente le signorine sono in lingerie, in déshabillé, la gente ha bevuto, noi abbiamo bevuto, l'ormone inizia un po' a salire, da lontano c'è sta ragazza che chiaramente punta al tavolo nostro, il tavolo dei disperati. Bellissima, fighissima, provocante, arriva con il passo da fascia, da esterno destro proprio, e ci punta e va dritto da Mirko, che ovviamente è ubriaco come la merda, e lei fa due moine, due carezze e gli dice "dai, mi offri da bere". Lui sa benissimo che non deve offrire da bere alla ragazza e sa benissimo, come ha detto prima, qual è il trucco: io non ho soldi, ma visto che è ubriaco come la merda utilizza sì il codice, ma lo parafrasa e dice "scusa, ma non ho contanti". E lei, che problema c'è? Ho il POS. Pip pip, il primo l'abbiamo perso. Siamo rimasti in tre, io, quello brutto e quello in carrozzina, senza soldi, a raccattare gli avanzi di un tavolo, l'ormone altissimo, una situazione bruttissima. Si avvicina una seconda spogliarellista, sempre più bella, più figa, più provocante, più da lontano, ancora più esterno destro di quella di prima, quindi arriva ancora più dritta, salta l'uomo, eccetera, eccetera, e si avvicina. Però si avvicina a me e al che io inizio a mandarla via, riesco a allontanarla. Quindi abbiamo schivato il pericolo. A questo punto abbiamo due persone che sono molto arrapate. Quello in carrozzina però, stando seduto, non riesce a fare danni, quindi comunque si autolimita. Quell'altro invece inizia a diventare molesto, inizia a rompere i coglioni, inizia a diventare davvero quelle persone che da ubriache poi sono brutte da gestire, e quindi inizia a rompermi i coglioni, al che io perdo la pazienza e dico "ma porco Giuda", non ho detto Giuda, ho detto un'altra parola, dico "ma come cazzo, mi spieghi come cazzo facciamo a convincere una spogliarellista a fare un privé con uno talmente brutto da sembrare un ritardato?". E appena finisco sta cosa qua, quello in carrozzina dice "ma il fatto che Igor non è ritardato lo sappiamo solo noi". Parte la musica di Ocean's Eleven, la grande truffa può partire. Butto giù uno shot perché ci voleva del coraggio a fare questa cosa e quindi mi avvicino alla ragazza e indico i due miei amici dietro. La ragazza, vedendo me l'unico più o meno normo dotato della situazione, pensa che sia un volontario di una cooperativa, un assistente sociale, qualcuno di Emergency, Gino Strada, non lo so, e al che io mi avvicino e dico "ciao, scusa, ciao Andrea, piacere, eccetera eccetera, lo vedi quel mio amico?". Lei mi fa "quello ritardato o Jean Todd in carrozzina?". No, quello ritardato, allora ti spiego, oggi è il suo compleanno, purtroppo è un ragazzo un po' particolare e in sto paese non ci sono diritti, non ci sono tutele, anche il discorso del sesso è comunque una cosa, ci sono molti tabù, se facessi la gentilezza di... La ragazza mi guarda come si guarda un cane senza una zampa, no? C'ho proprio gli occhi a forma di cuore, appunto, ripeto, pensa che io sia un volontario, eccetera, eccetera. Dice di essere un po' intimidita, di chiamarsi Rina, di avere 23 anni, di essere moldava. Accetta, chiaramente pretendo un po' che ci sia anche la mia presenza per sorvegliare il tutto, perché non ha mai fatto una cosa del genere appunto con un ragazzo che lei pensa sia ritardato, e... al che io faccio così e torno dal mio amico, gli dico "guarda Igor, più o meno la situazione è questa, tu ce la fai, lei ci sta, ce la fai, te la senti, perché adesso si va in scena se si fa". E lui mi guarda con uno sguardo vacuo che va verso sinistra, con cui penso che è entrato praticamente nel personaggio. Quindi a quel punto lo vedo già nella parte, guardo da un'altra parte, lo prendo per mano, ritorniamo dalla ragazza e siamo all'interno del privé. Ora, per chi non ha dimestichezza con i privé sono dei cubicoli molto stretti, divanetto, divanetto, divanetto, musica a palla, tendenzialmente canzoni di merda, discoteca, cosa del genere, e molto buio. La ragazza si spoglia, un quarto d'ora, 20 minuti, durano di solito 50 minuti, la ragazza si spoglia e balda. Tu non la puoi toccare, la ragazza. Questo c'è proprio, è vietato, non la puoi toccare, non puoi fare un cazzo. E la ragazza soprattutto non può toccare te. Ma se la ragazza pensa che tu sei ritardato, la ragazza fa delle eccezioni. E quindi non faccio in tempo a dire a voi questa frase, che la ragazza sta facendo una sega al mio amico. E io penso a quanto è triste la mia vita, dato che la mia prima cosa 3 è in compagnia di una spogliarellista moldava e di un finto ritardato. E io tra l'altro non posso neanche partecipare. La ragazza però, mentre sega, si apre con noi, ci racconta confidenze e ci dice di non essere davvero moldava, ma di essere rumena, ma di preferire di dire di essere moldava a causa della reputazione da Troia che secondo lei hanno le rumene, e lo dice mentre sta facendo una sega a un finto ritardato. La ragazza si allarga e ci dice che ha dei parenti però in Moldavia, a Chisinau, quella che una volta era la capitale, una città molto bella, e ci consiglia di andarci e ci dice: Chisinau, pensate che una volta aveva dei palazzi talmente bianchi, talmente maestosi, talmente regali, che si era guadagnata l'appellativo di città bianca, bianca come la sborra che in quel momento esce dal cazzo di Igor. Cazzo rimesso in fondina, privé finito, usciamo dal privé, ritroviamo gli altri disgraziati, quello con le punte bionde e quello in carrozzina. Andiamo alla macchina e torniamo verso casa. E come durante tutti i viaggi di ritorno, è tempo di bilanci. Scopro che Igor è molto contento, no, anzi Mirko, scusatemi, è molto contento del suo privé, quello con le punte bionde, il primo che è partito, anche se gli è costato 400 euro, perché poi una volta col bancomat è finita, non è più proprio la misura. Igor era molto contento del suo privé, io non ero molto contento del mio privé, ma la cosa incredibile è stata scoprire che Alberto, quello in carrozzina, quello di 40 anni, quello col cappello rosso della Ferrari sempre in testa, quello senza soldi, era molto contento del suo privé, forse il più contento di tutti. E al che noi gli abbiamo detto: ma scusa, ma come hai fatto a fare un privé appunto che eri senza soldi, senza banco, ma senza niente? E lui, con il fare teatrale che solo certe persone possono avere, lui era seduto davanti, perché in carrozzina li devi mettere davanti e mettere la carrozzina nel baule, quindi non hanno molta mobilità quelli in carrozzina, di solito non giocano a tennis, quindi tendono a stare dritti. Lui si gira per quei 25 centimetri che può girare e ci dice con molto carisma: signori, secondo voi il finto ritardato è riuscito a farsi fare una sega? State a vedere che il vero handicappato non riusciva a farsi fare un bocchino. E questa è un po' la morale di questa bellissima storia inclusiva, dove l'inclusività, anche se noi non la chiamiamo con quel nome, c'è sempre stata. Bisogna solo andare a trovarla nelle piccole cose. E io, con questa bellissima massima, che tra l'altro me la sono inventata adesso, di sana pianta, come hai visto? Chiamo sul palco Alberto Vitale. Che bel momento di televisione. No, giusto per dimostrarvi quanto è tutto collegato. In realtà ha parlato di night, Andrea. Io ho conosciuto mia moglie in un night, pensate un po', sul serio, cacchio. Mi metteva i soldi nel tanga mentre io ballavo. Tra l'altro metteva le lire, erano fuori corso ormai da anni. Va bene, qualcosa è andato via di nuovo Ludovico. Ludovico abbiamo che va e torna, ci lascia, ci dimezza sempre il pubblico. Ah, ma c'è il pubblico nuovo, tra l'altro. Ah, vi siete persi l'inizio scoppiettante. Ah, no, beh, ma voi siete arrivati a che punto? Siamo qua da giorni. Ah, da giorni, sì, però... Però giustamente non volevate sentire l'inizio. E, vabbè, allora qualcosa su di me per anche Enrico ormai, qui vediamo sempre meno. Qualcosa su di me, allora, qualcosa di me da giovane, vi ho detto, io sono uno un po' particolare, a me sono uno a cui piace pisciare fuori dal vaso, ve lo dico, e questa cosa dà fastidio a molte persone, soprattutto a chi passa sotto il mio balcone in quel momento. Sono stato fidanzato per un po' di anni con una ragazza molto, molto bella, poi ci siamo lasciati perché io ero diventato vegetariano e lei aveva le labbra troppo carnose. Sono uno che dicono che lascia le frasi a metà, eppure. E poi che altro dire su di me? Su di me possiamo dirvi che... passiamo alla... Non mi ricordo, c'era una roba che dovevo dire ma me la sono completamente dimenticata. No, volevo dire questa perché era quasi nuova, vabbè. Quella battuta che avrebbe Volevo dire, quella che avrebbe svoltato tutto, ma la sono completamente dimenticata. Allora parlerò di vacanze. Ah, sì, ecco, era questa. Sono uno a cui non piace, è terribile. Infatti va via anche Paola. Sono uno a cui non piace rimandare le cose, quindi mi piace farle subito. Mi ricordo, da giovane avevo detto a mio padre che volevo fare un tatuaggio e lui mi ha detto no, guarda che poi te ne penti. Allora io sono andato a farmelo subito e mi sono fatto tatuare un pene enorme qua sul corpo in modo da pentirmene subito. Una volta ero in spiaggia con le mie figlie, effettivamente era un po' imbarazzante, così sono tornato dal tatuatore e ho cercato di farmelo un po' modificare e così lui mi ha aggiunto un sorriso e un paio d'occhi qui e un po' di capelli sopra ed è andata molto meglio. Solo che in spiaggia la gente mi fermava e mi chiedeva perché avevo tatuato la faccia di Renzi sul petto. A proposito di mare, molto piacevole andare al mare, una cosa molto bella, perché il mare è l'eterna caducità della vita, no? L'eterno fluire. Ho scritto Tamo sulla sabbia e subito un'onda l'ha fatto scomparire. Ho scritto Sono un coglione e il mare subito si è ritirato di 3 metri e la scritta è rimasta 3 settimane sulla sabbia. Io credo che l'universo voglia dirmi qualcosa. Al mare non ci vado molto volentieri perché ho un piccolo difetto fisico, io ho i piedi palmati come i gabbiani, è una cosa che all'inizio mi vergognavo, ora ho scoperto che si sta bene lo stesso, anzi mi permette di nuotare più veloce, l'unico problema è resistere alla tentazione di cagare in testa ai bagnanti che sono sdraiati sulla spiaggia. Al mare è bello perché vado con le mie figlie, per i bambini è facile fare amicizia al mare. L'altro giorno, quando sono andato l'ultima estate, c'erano dei bambini che stavano facendo dei castelli di sabbia, le mie figlie si sono avvicinate e hanno detto se potevano fare dei castelli con loro, loro subito hanno detto sì. Solo che i castelli facevano veramente schifo, quindi mi sono messo a schiacciarli e a rovinarli, i bambini si sono messi a piangere e non ho più voluto giocare con le mie bimbe. Quindi al mare è molto facile per i bambini fare amicizia, tranne per le mie figlie. Ma lo spiegheranno allo psicologo prossimamente quando andranno. Al mare, devo dire, è anche un momento di invidia per i bambini. Ricordo mia figlia era in mare con me e lei era col suo salvagente da Lidl da 2,99, verde fluorescente da un lato e oro dall'altro. E di fianco a lei c'era un bambino tedesco con un cigno gonfiabile su una piattaforma di 3 metri di larghezza e un collo alto 2 metri che faceva i tuffi olimpionici. E devo dire che mia figlia era un po' invidiosa in quel momento. Io guardavo questo cigno gonfiabile in acqua con mia figlia, c'avevo uno stuzzicadente in bocca, io vado sempre in giro al mare con uno stuzzicadente perché fa molto mafioso e mi serve per trovare posto in spiaggia, nelle spiagge libere, e quando le spiagge sono particolarmente occupate vado in spiaggia anche con un gessato. E non sapevo cosa fare per mia figlia, mi sentivo un po' in imbarazzo, però alla fine ho detto, beh, non ti preoccupare, piccolina, ci penso io, ci pensa papà. E quindi sono uscito dall'acqua, ho preso la macchina, sono andato in un lago lì vicino in cui sapevo essersi un cigno, mi sono tuffato, ho lottato con il cigno sott'acqua, sono riuscito a mettergli lo scotch da pacco nel becco, perché questi maledetti bastardi beccano anche le povere persone che tentano di catturarli, gli ho legato le ali, come può fare chiunque, l'ho messo in un sacco, di nascosto, perché purtroppo è illegale, era per i cigni. Sono tornato al mare con questo cigno, l'ho messo in acqua e ci ho messo sopra mia figlia, ho detto vai, divertiti. Così, e finalmente mia figlia si è divertita un po' questo cigno e questo bambino tedesco era tutto invidioso. Dopo poco, quando mia figlia si è stancata, ho tolto mia figlia e ho lasciato andare questo cigno libero nel mare, nel suo elemento, finalmente felice. Ed è stato bello vederlo andare via, anche se aveva ancora il becco scocciato perché non gliel'avevo tolto, me l'ho dimenticato. È bello vedere questo cigno che sbatteva le ali così nel mare tranquillo allontanarsi. Finché non è stato mangiato da uno squalo tra tante piume, peccato. E poi ho fatto scoppiare anche il cigno gonfiabile del bambino tedesco perché mi stava sul cazzo. Detto questo, finisco con una favola. E una favola della buonanotte, visto che ho appunto le mie bimbe. Una favola che dedico alle mie figlie che hanno sempre un po' di problemi ad addormentarsi. Questa si intitola Il piccolo tappo di sughero. E lo dico per voi quattro, se volete addormentarvi anche voi tranquillamente, dalla serata è quella giusta. C'era una volta un dolce bambino molto molto piccolo che tutti chiamavano tappo di sughero, un po' perché era piccolo proprio come un tappo di sughero, un po' perché bestemmiava come un marinaio ubriaco. Tappo di sughero era purtroppo rimasto solo. Il giorno della sua nascita infatti l'ostetrica disse alla madre: sta per nascere, spinga, spinga, spinga più forte che può! E tappo di sughero, piccolo com'era, fu sparato involontariamente dalla vagina della madre attraverso la finestra a chilometri di distanza e non rivide mai più i suoi genitori. È una favola classica questa. La sua unica figura di riferimento era la maestra. anche se a scuola era talmente piccolo che nel momento dell'appello la maestra non lo sentiva né vedeva, quindi lo segnava sempre assente e ogni anno veniva puntualmente bocciato per assenteismo con infamia. Un giorno però accadde un fatto incredibile. Imprecando per l'ennesima volta perché la maestra non l'aveva sentito, fece scendere dal cielo Padre Pio, che rimase molto sorpreso quando lo vide perché si aspettava invece di trovarsi davanti un erboruto camionista veneto. Padre Pio vide tappo di sughero e gli disse: «Dimmi piccolino, cosa ti è successo? Forse posso aiutarti con i miei poteri». Tappo di sughero rispose: «Vede Pio», ma fu interrotto da una voce alle sue spalle. «Dimmi, dimmi pure». «Ma come?» disse tappo di sughero. «Ma sei anche qua?» «Io ho il dono dell'ubiquità», disse l'altro Padre Pio. «Posso essere in più posti contemporaneamente». «Ok, Pio», riprese tappo di sughero. «Allora, il mio problema è che...» «Non ti vergognare», disse un altro Padre Pio che era apparso in quel momento. «E tre», disse tappo di sughero che incominciava a seccarsi. «Ora posso parlare?» «Solo un attimo», disse il primo Padre Pio. «Ragazzi, il Padre Pio che in questo momento è al bar chiede cosa vogliamo da bere. Facciamo tre spritz?» Al che tappo di sughero cacciò un bestemmione da far impallidire anche il Padre Pio che in quel momento si stava abbronzando sul lettino di Milano Marittima. E disse: «Ora basta, cazzo, ascoltatemi! Il mio desiderio è diventare grande come gli altri bambini che vanno a scuola. Vorrei essere grande il doppio, il triplo, 10 volte, anzi 10 alla 10ª volta tanto!» E tutti i Padre Pii la contentarono, anche perché avevano voglia di andarsi a bere lo spritz. Tappo di sughero cominciò a crescere come aveva desiderato. C'è da dire che a Tappo di sughero piaceva leggere i libri ed era molto bravo in italiano, ma poco in matematica. Ignorava infatti completamente l'elevamento a potenza. In particolare ignorava che 10 alla decima corrisponde a 10 miliardi di volte. Quindi lui, che era originariamente grande pochi centimetri, divenne grande oltre 1 milione di chilometri. Tappo di sughero si trovò così improvvisamente gigantesco, più grande di una montagna. Non sapeva cosa fare e non sapeva a chi chiedere. Poi si ricordò della sua maestra, la sua figura di riferimento. Si recò quindi alla scuola e chiamò a gran voce la sua maestra. La sua voce tonante fece scoperchiare il tetto della scuola e volare via decine di bambini che si dispersero per sempre nella campagna. Ma riuscì ad attirare l'attenzione della maestra, la quale lo vide e gli disse: «Tappo di sughero, sei proprio tu! Non ci posso credere! Finalmente sei venuto a scuola, sono anni che mi fai perdere tempo all'appello!» Tappo di sughero la guardò e disse: «Ma vaffanculo!» Poi schiacciò la maestra con il suo piede enorme, distruggendo l'intera scuola. La botta sul terreno fu talmente forte che si propagò all'interno, facendo esplodere definitivamente la terra in 1000 pezzettini e sterminando per sempre tutti i 7,9 miliardi di abitanti che lo popolavano. Buonanotte e un bacio. Ragazzi, ragazzi, sono stanco a Tappo di sughero, che amore! Ah, ragazzi, ora... sono Enrico Veronica, sono quello di prima, quello sexy. Ora, io in realtà non sono diventato famoso quanto meritavo. Quella, no, ma perché siamo in Italia? Voi sapete che in Italia per diventare famosi bisogna essere dei figli d'arte. Sì, la conoscete sto pezzo, è l'unico che mi viene in mente. Quindi è quello, quell'unico jolly che mi viene in mente. No, bisogna, ma è una storia vera però. Cioè bisogna essere i figli Tognazzi, i figli dei Pooh. Beh, la storia dei figli dei Pooh la sapete voi, no? Lo sapete? Cioè che sono stati fatti negli anni 70 in laboratorio dal governo Nixon come arma batteriologica, cioè ce li hanno fatti accoppiando tutte le varie copie di Pooh possibili, quindi Red Kansian con Facchinetti, Facchinetti con Dodi Battaglia, Dodi Battaglia con Stefano Dorazio, Stefano Dorazio con... ce ne manca uno forse, sì. No! No, spargendo ogni tanto bonus il seme di Riccardo Fogli. Perché vi dico questo? Un po' per farvi capire subito che tutto quello che dico ha delle basi scientifiche solidissime e un po' anche per farvi sapere che so il nome di tutti i Pooh. Che non è po', io ci tengo, è così. Ragazzi, in Italia è così... In Italia, se non hai un padre o una madre famosa, non fai successo. Poi vabbè, ci sono anche le eccezioni. La Franzoni è diventata famosa grazie al figlio, per esempio. Ma lei è la famosa eccezione. Siamo così perché l'Italia è così. Per fortuna c'è il Papa. Per fortuna c'è il Papa, che grazie al suo verbo salvifico riesce a entrare in un individuo, lo cambia, lo migliora e lo salva appunto e non fa figli. Avete mai notato? Cioè il Papa può entrare in ogni individuo e non fa figli. È esattamente come il sesso anale il Papa. Ma infatti in tante altre culture sesso anale vuol dire papa e viceversa. Ma cosa sto a dire queste cose a voi che siete antropologi? Ma che cazzo c'ha ste assi? Ma solo con me succede? Cioè, ma prima non era così. Cosa gli hai fatto? È un cigolio, a sinistro. Dicevo, comunque io non, che poi io veramente non, ma io non chiedo tanto. Cioè, allora vi faccio capire qual è il, diciamo, l'ideale di successo a cui ambisco io. È davvero una cosa, è il classico successo italiano, cioè quello che non ha a che fare col merito, non ha a che fare col talento, non ha neanche a che fare con la tanta vituperato nepotismo di cui abbiamo parlato prima, ma è quel successo che si conclama alle 3 del mattino su Rai 1 in una replica notturna con Marzullo quando intervista quelle attricette. Lo sentite che mi sto spegnendo, vero? Ma no, ma adesso quelle attricette dalla faccia, dal nome insipido, e quando fa la classica domanda: ma come è iniziata la tua carriera? Com'è che hai cominciato a fare l'attrice? Poi ogni tanto mi riprendo e entra anche la mia grande dote attoriale. E lei risponde sempre: ah, dottor Marzullo. Poi qualcuno ci dirà in cos'è dottore Marzullo un giorno. Comunque, dottor Marzullo, lei non ci crederà, io non volevo fare l'attrice, è che la mia migliore amica doveva andare a un provino e mi ha detto: vieni, accompagnami. Beh, non ci crederà, secondo me ci credo. Poi alla fine non hanno preso lei, hanno preso me e ho cominciato a fare l'attrice. Lei ora fa l'estetista Buccinasco. Ecco, è questo il sogno mio. C'è una fama che non si basa sul merito, ma su una splendida amicizia distrutta per sempre. È l'unico valore a cui ambisco. Tra l'altro, questa cosa qua di Marzullo è la stessa cosa che è successa anche a Don Bosco. Sapete anche questa, Cioè, Don Bosco non lo voleva fare il prete, Solo che il suo amico gli ha detto: senti, Giovanni, devo andare in seminario a fare il colloquio di dai, accompagnami. Poi non hanno preso l'amico, hanno preso Don Bosco, Cioè, pensa che Don Bosco non sapeva neanche cosa fosse un seminario. Ha detto: vabbè, dai, ti accompagno, il seminario mi sa di posto pieno di figa. E questo pezzo generalmente finisce qua. Però siccome mi sto spegnendo, mi voglio proprio... Madonna, hai visto come mi sto spegnendo? Ma secondo me ho vissuto troppo quella del cane. E prima... Cioè, non me la fate fare più, la combo... Quando mi vedete fare, che saper fare, la combo... barista cinese, già dice: occhio che col barista cinese ti svuoti. Ma se poi fai il barista cinese e hai attacchi quella del cane, non fai... No! Non me lo fate fare mai. Madonna, che stanchezza. Senti, cosa facciamo? Chiudiamo, Silvia? No, racconta delle Kiranek che doveva fare un altro lavoro. No, vabbè, allora faccio quella, ma velocemente. Non lo vuoi fare il pezzo? No. Allora faccio questa cosa ma veloce, anche perché anche questa ci sono i momenti in cui la interpreto molto. E tra l'altro qua, secondo me lo conoscete sto pezzo, però in realtà io ho già delle gruppi, Francesca è andata via, ma secondo me era gruppi in pectore comunque. Allora, Nerone, la conoscete, voleva fare il poeta. Tu la conosci, Madre, questa? Ma da quant'è che vieni qua? Ah, Nerone voleva fare il poeta. Adolf Hitler voleva fare il pittore. Charles Manson voleva fare il cantante. Perché vi dico questo? Perché prima di affossare i sogni artistici di qualcuno, beh, dovremmo indagare almeno sul loro eventuale piano B. Ora che... È vero anche il contrario, Neck, per esempio, che è un ragazzo a cui vogliamo tutti un sacco di bene. Cioè, Neck, magari, lui non lo voleva fare il cantante. Cioè, lui non ce l'aveva, il suo sogno da quando era bambino era fare il dittatore in uno stato centroafricano. No, noi l'abbiamo instradato e convinto, esortato in questa carriera di contante risultato. Non me ne vogliano i fan di Neck, so che sono in tanti. Abbiamo molto probabilmente l'ennesimo cantante mediocre in più, e forse abbiamo perso un grandissimo dittatore di uno stato centrafricano, e non lo sapremo mai, e non lo sapremo mai io stesso. Io non lo volevo fare il comico, e secondo me l'avevate captata sta cosa. Io da quando ero bambino, cioè il mio sogno, questo, io volevo fare la bidella alla scuola media in via Tabacchi qua a Milano. Non il bidello, la bidella. Vabbè, bidello, bidella, cioè, l'impiegato statale è come gli angeli, non ha sesso. Tanto qua poi andavo avanti, ma come vedete mi sto spegnendo, mi sto spegnendo, mi sto spegnendo. Allora vado a chiudere con una battuta brutta. Chiudiamo con una battuta. Mi state dicendo che con questa battuta chiudiamo questa serata storica bellissima? Silvia, non vuoi far niente? Andre, devo chiudere? Ma sono molto stanco. Però bisogna chiudere con una battuta secca. Volete consigliarmi una battuta? I ragazzi la sanno, secondo me. No, va bene, dai. Da canzone addirittura, però il fatto che mi chieda, per chi non mi conosce, fa vedere che sono un po' un genio multiforme io, potrei fare anche vedere tutto i miei muscoli dorsali anche, però chiudiamo con questa, un classico, una che interpreto, però dai, chiudiamo almeno con una che interpreto. Tesoro, i nostri figli sono gemelli siamesi. Ma che cazzo stai dicendo, amore? E allora guarda che forse si stanno inculando. Signori, i gemelli siamesi che si inculano, solo qua, solo in questo locale. Posso chiedere però la chiusa? La chiusa come abbiamo iniziato, con una sonata di Ludovico? Guarda, non ne può più, si sta mettendo. L'artista ci ha già fatto un regalo. Però guarda, chiudiamola così, noi non ti obblighiamo a salire adesso, ma devi venire un'altra volta. Ludovico, ci prometti che ritorni a suonare ancora con noi? Signori, qui c'è un grande odore, un odore di comico. È stato bellissimo avervi qua con noi. È stata una grande serata, posso dire? È stata bellissima. Che cosa ne penso? Ah, no, non chiediamolo, noi diciamo che è stata. Tu perché stai lì? Vieni qua, cazzo. Va bene, va bene. Silvia, guarda. Sì. Paolo e Margherita, voi tornate? Certo. E quattro li abbiamo. Loro lavorano qua, quindi per forza. Ce ne sono altri due che sono andati dopo. Ah no, scusa. Ma io li conosco tra l'altro, solo che io non vedevo un cazzo, scusate. Ciao ragazzi, ciao, scusate, avevo mica visto. Quindi è stato bellissimo. Alberto Vitale, Silvia Conti, Enrico Veronica. Grazie, ex Alge, ci vediamo il 18 maggio in teoria. Se vi avanzano le monete, buttatele nelle buste per sti ragazzi. Anche io,